Euroreportage. Ucraina, Je suis Mariupol, di Mattia Sorbi. Je suis Mariupol. Il nuovo anno in Ucraina, come in Francia, è iniziato sotto nefasti auspici. Un bus pieno di civili è stato centrato da un missile Grad lanciato dai separatisti russi nei pressi del posto di blocco di Volnovakha, un paesino situato tra Donetsk e Mariupol, popolato da poco più di 20.000 anime. Qui si è verificata una strage di 13 feriti e 12 morti, di cui 7 uomini e 5 donne. Si tratta del più grave attentato dall'inizio del conflitto, che si inserisce nel contesto della battaglia per la conquista dell'aeroporto di Donetsk e della città di Mariupol da parte dei terroristi filorussi. Con la fine delle vacanze per il Natale ortodosso, la guerra è ripresa in modo violento con l'utilizzo di sistemi lanciarazzi Buratino utilizzati durante la guerra in Afghanistan dai sovietici e la seconda guerra cecena dai russi. Mariupol, sabato 24 gennaio, è stata ferocemente presa di mira dai separatisti filorussi, che hanno fatto piovere sulla città portuale 120 missili Grad. Alcune testate hanno centrato in pieno la zona del mercato, uccidendo 30 civili e ferendone altri 90. Un chiaro avvertimento per terrorizzare la popolazione locale e intimarla a lasciare la città che congiunge la penisola di Crimea con Donetsk e Lugansk. I ribelli filorussi proseguono l'avanzata verso Debaltseve, soggetta negli ultimi giorni a pesanti bombardamenti, per conquistare tutta la regione sudorientale del Donbass. Giovedì, dato il peggioramento del conflitto, il Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione Europea, che ha appena stanziato 1.800.000.000 di euro per scongiurare la bancarotta ucraina in cambio di riforme strutturali e lotta alla corruzione, si è riunito in sessione straordinaria a Bruxelles. Il Consiglio, presieduto dall'alto rappresentante per gli affari esteri, Federica Mogherini, ha deciso di non procedere con ulteriori sanzioni economiche contro la Russia, ma di allungare la lista nera dei nomi soggetti a sanzioni individuali. Unica voce fuori dal coro quella della Grecia, che con il suo ministro degli esteri, Nikos Kotsias, ha dichiarato di essere contraria a questa misura preventiva contro Mosca. Una decisione unanime è necessaria nel Consiglio dei Ministri per procedere a qualsiasi provvedimento. Dunque la posizione del nuovo governo greco rischia di paralizzare l'unità europea per favorire nuove relazioni tra Europa e Russia. Nel frattempo, il gruppo trilaterale di contatto sull'Ucraina, formata da rappresentanti russi, ucraini e dall'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, si è riunito venerdì a Minsk. In questo momento Donetsk rimane in ginocchio, priva com'è di banche e di altri servizi di prima necessità, come i rifornimenti di scarpe e i vestiti per i negozi. All'interno dell'hotel Ramada concordo un incontro a tu per tu con un soldato delle forze cecene presenti in città, soprannominato Ahti. Combatte con i corpi speciali arrivati a Donetsk per addestrare i ribelli filorussi e per compiere assieme al suo battaglione alcune tra le azioni più atroci e meschine che possano avvenire in guerra. Sto solo difendendo la mia terra dai fascisti e dalla loro giunta. I soldati ucraini sono molto deboli, sono carne da macello. Poroshenko, Parubi e Yatsenyuk vogliono bruciare la nostra popolazione, uccidere donne e bambini, demolire i monumenti e cancellare la nostra storia. Fino a quando al potere ci saranno coccodrilli e altri predatori, la pace in Ucraina sarà impossibile. Gli uomini verdi, come vengono soprannominati questi corpi speciali addestrati alla morte, sono diventati una presenza ingombrante in città, al punto che i civili hanno paura di camminare per strada. Ce lo racconta Larisa, una giovane donna sposata con un prete ortodosso locale, Maxim, che ci accoglie in casa con i suoi tre figli. Abbiamo alcuni problemi con l'acquisto dei prodotti alimentari. Il nostro denaro è sulla carta di credito e così non possiamo utilizzarlo facilmente per pagare il supermercato. La scorsa estate è stato molto difficile con due bambini mentre ero in attesa del terzo figlio. Ho avuto molta paura per la mia famiglia. Questo è il motivo per cui ho lasciato la città per un certo periodo di tempo. Il mio terzo figlio non è nato a Donetsk. Sono tornata qui quando non è stato più così tremendamente pericoloso. Ora non ci sono più problemi d'acqua, di gas o di elettricità. Viviamo quasi normalmente, ma è spaventoso andare fuori. E придёт сюда спокойствие, война закончится. E ждём этого в следующем году после. Il marito, padre Maxim, 29 anni, aggiunge una riflessione. Самое, знаете, наверное, распространённое пожелание сейчас мира желать, мирного неба. Siamo una sola nazione, nonostante i tentativi in atto per separarci. Tutto quello che sta accadendo adesso è intollerabile. Voglio che la gente di qui possa venire ascoltata. Penso che tutti qui abbiamo dimostrato cosa significa avere uno spirito russo. Suvorov un tempo disse: noi siamo russi e Dio è con noi. L'essere russo corrisponde a uno stato d'animo di una persona pacifica che cerca la pace nel mondo e crede in Cristo. Quando siamo con Cristo siamo uniti. Quando lo stiamo perdendo siamo alla ricerca delle differenze che ci separano. Vorrei augurare a tutti di trovare Dio nella propria anima. Il problema non è la Russia, il problema è la nostra fede. Se guardiamo la storia possiamo vedere che in ogni secolo ci fu una guerra contro i russi. Il punto chiave è la differenza tra noi e l'Europa. Ora i giovani accettano la cultura occidentale che è diventata popolare. Non riesco davvero a comprendere come si possa uccidere la nostra gente. Se parliamo di democrazia, non possiamo trovare la pace attraverso la guerra. Noi non interferiamo con la politica, portiamo la fede. Davvero, la minoranza degli insorti ucraini di etnia russofona che si è armata fino ai denti ed ha fatto scappare la maggioranza della popolazione, ora rifugiatasi a Kiev o nelle altre grandi città ucraine, si concepisce esistenzialmente russa, al punto da aver deciso di spostare le lancette dell'orologio di un'ora in avanti ed equiparando l'ora legale a quella di Mosca. Alle prese con questa tremenda realtà ci sono tre giovani volontari che incontro sulla loro macchina per non essere ascoltato dai soldati ceceni che passano vicino all'ufficio da dove lavorano. Sono tutti e tre molto uniti e determinati e raccontano come trasportano e distribuiscono vestiti e alimenti ai tanti profughi che sta provocando questa guerra. Mi chiamo Женя, до войны я работал журналистом, местным обозревателем для... Mi chiamo Genia. Prima che scoppiasse la guerra, lavoravo come giornalista. Ora che il mio giornale ha chiuso, sono diventato un volontario. Assisto i civili che sono rimasti a Donetsk. Vivo alla periferia sud della città e purtroppo il mio quartiere si trova nell'area dei bombardamenti dell'artiglieria. Quando vado in balcone, vedo l'artiglieria dei separatisti sulla sinistra e l'esercito ucraino sulla destra. A volte capita che sbaglino il tiro. Il risultato è che le centraline del gas e dell'elettricità vengono danneggiate e viviamo senza luce e gas per circa due settimane. Mentre sorge plastica la realtà dei fatti, come il potere, il gas e dunque il denaro siano al centro di tutta questa vicenda, ci si interroga se l'Europa riuscirà a vincere la pace in questa guerra fratricida ed economicamente disastrosa, che per ora ha visto il crollo del rublo e la diminuzione del PIL ucraino di 7 punti percentuali. Poco più di un mese fa, Romano Prodi, in visita al Cremlino in veste di presidente della Fondazione per la collaborazione tra i popoli, ha fatto intendere che in tempi come questi bisogna avere il coraggio di sperare contro ogni speranza, dichiarando di aver detto con molta chiarezza a Putin che il gasdotto South Stream, che inizialmente avrebbe dovuto collegare la Russia con l'Italia passando attraverso il Mar Nero, non è necessario. Secondo Prodi è meglio tenere i tubi che ci sono e fare un grande accordo tra Russia, Ucraina ed Europa. Una gestione comune di questa infrastruttura sarebbe un grande gesto di pace, ha concluso il professore. Per ora Putin non sembra intenzionato a mollare la presa su una nazione senza la quale la Russia smetterebbe di essere una potenza completamente euroasiatica. A livello economico è in atto uno scontro internazionale che sembra avvicinare la Russia sempre più alla Cina, mentre non ci è dato di sapere dove la guerra del Donbass ci condurrà. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.